Ma amore mio, non sai che non ti ho scritto mai mentre ti amavo, perché una volta sola potevo amarti, ma ora che ti ho persa, non ha nome il dolore più, non di un braccio, un dito o un'unghia, ma di tutto l'essere e del mondo. Piangono i castagni del prato, cede la casa abbandonata, pietre all'erba, piange il cervo che non lascia orme nella neve perché lo segua, trema la luce perché tu la spenga, e piange il fiume ghiacciato, il capriolo nella piccola radura, gli affreschi nei vicoli di Genova, i laghi svizzeri e i marciapiedi berlinesi. Ma io non riesco a piangere con loro, eppure piango forte più di tutto e tutti, e solo qui, pensando al male che ho portato dentro il mondo, io vorrei che fosse mio soltanto, e calpestandone nel fango il seme, sbriciolare la scorza dura al pianto.